Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta anche noi dal Salone del Libro di Torino. Se mi fate un applauso, grazie, così partiamo. Sono stranamente arrivato in leggerissimo ritardo. Allora, la giornata economico-finanziaria, fermo restando che anche oggi, come domani, parleremo qui da Torino del mondo dell'editoria, ma non solo. Come avete sentito, ci sono delle novità sul fronte crediti alle imprese, dichiarazioni ieri del primo ministro, presidente del Consiglio Monti, e oggi del ministro allo sviluppo economico Corrado Passera. Si sta cercando di sbloccare, non tutti, ci mancherebbe, ma una parte dei 70 almeno miliardi di euro che la pubblica amministrazione deve alle imprese, soprattutto nel settore sanità. Corrado Passera, oggi lo ascolteremo, ha anche fatto delle dichiarazioni abbastanza nette sulla crisi, sul pesare di questa crisi, una crisi che pesa più di quanto non venga raccontato da dati e statistiche, ha detto il ministro. E poi una notizia non necessariamente positiva, anzi, la ripresa si allontana, lo dice il Centro Studi Confindustria, che oggi ha stimato un 2013 più debole delle attese. Già sappiamo che il 2013 avrebbe dovuto essere l'anno della ripresa modesta, a questo punto da modesta diventa modestina proprio. La produzione industriale a marzo ha fatto più 0,5% sul marzo del 2011, però su febbraio del 2012, ma ha fatto meno 6% sul marzo del 2011, a dimostrazione che la frenata c'è stata, è stata forte ed è iniziata tra fine novembre e inizio dicembre. Ancora, per quello che riguarda i primi tre mesi dell'anno nella produzione industriale italiana, siamo a un meno 2% rispetto a 12 mesi prima, quindi ai primi tre mesi del 2011. Anche alcuni dati sulle partite IVA racconteremo nel corso del programma. E poi chiaramente il tema che riguarda Monte dei Paschi e di Siena, dichiarazioni oggi di Alessandro Profumo, le ascolteremo durante i mercati, ma intanto la magistratura va avanti e indaga sull'operazione, lo abbiamo spiegato ieri estesamente, l'operazione che portò il Monte dei Paschi di Siena ad acquisire la Banca Antonveneta dal Banco Santander, pagandolo una cifra da molti giudicata eccessiva, con un guadagno in quel caso per gli spagnoli del Santander di 2 miliardi di euro. In realtà non è l'ammontare della cifra, ma il modo in cui fu condotta l'operazione. Le accuse sono di aggiotaggio e interferenza nelle attività di vigilanza. 349-238-6666 per i vostri sms. Partiamo subito con le notizie in breve e chiaramente, come sempre, dai mercati finanziari. Allora, bene le borse, soprattutto Milano oggi, più 1,5%, abbiamo anche il pubblico qui al Salone del Libro di Torino, magari alcuni investono, spero di no per loro, comunque più 1,5% Milano, Parigi invariata, Londra sostanzialmente positiva, ma è interessante in questo momento l'America che ha un doppio andamento, il Dow Jones più 0,15%, il Nasdaq meno 0,34%, Parigi invariata anch'essa, dicevamo. Madrid guadagna il 3% dopo aver toccato ieri il livello più basso dal 2003, e questo la dice lunga sulle difficoltà in Spagna in questo momento. Qui dobbiamo, c'è il gufo che ci ha seguito a Torino, è un gufo anche istruito, letterato, per cui è andato in giro per i padiglioni, però insomma il gufo mi servirà adesso per quello che riguarda la notizia che sto per leggervi. Nei prossimi 4 anni, infatti, dice l'agenzia di rating Standard & Poor's, è attesa una tempesta perfetta da 35 mila miliardi di euro sui mercati finanziari, risultato di una combinazione tra l'ingente bisogno di capitali delle società, la riduzione della leva finanziaria delle banche e le difficoltà economiche di Stati Uniti ed Europa. Allora, nei prossimi 4 anni, dice Standard & Poor's, una tempesta finanziaria perfetta da 35 mila miliardi di euro. Se non ci vuole gufo adesso, non so quando ci possa volere. Allora, no, io rido, ma il dato è drammatico. A parte il fatto che Standard & Poor's dovrebbe anche chiarirci perché la combinazione di un ingente bisogno di capitali delle società, riduzione della leva finanziaria delle banche e difficoltà economiche degli Stati Uniti ed Europa. Cioè, questo vuol dire che Standard & Poor's si attende un calo nell'economia americana oltre che quella europea. Tant'è, come va lo spread? Volete sapere, va male anche oggi, 410 punti, il differenziale con la Spagna resta, cioè la Spagna è percepita più a rischio di noi, è a 455 punti. È tornato poi nel pomeriggio sotto i 400 punti, ma sono un livello ancora inaccettabile per quello che riguarda il costo che sostiene l'Italia per trovare finanziatori sul suo debito. E poi le due Europe, come le abbiamo chiamate ormai, perché da un lato Angela Merkel, la Germania, dice attenzione, le prospettive della crescita in Germania sono migliorate, siamo contenti per loro, però no agli eurobond, no a titoli di Stato emessi a livello europeo, non sono strumenti miracolosi contro la crisi. Nel frattempo però in Grecia la disoccupazione tocca un nuovo record storico, il 21,7%. Pensate che nei giovani tra i 15 e i 24 anni in Grecia uno su due non lavora, il 54%, una cosa che penso non abbia uguali nei paesi, diciamo, sviluppati. La ricetta tedesca non è che stia funzionando così tanto, vabbè. C'è una notizia però strana che arriva dalla Grecia. Abbiamo già raccontato del numero di Porsche presenti, c'è una piccola cittadina greca che ha il record europeo di numero di Porsche presenti, ma insomma l'Unione Giovani Agricoltori greca ha messo un annuncio per cercare persone per la raccolta delle pesche, come si fa anche in Italia, no? Beh, insomma, pensate che 6 giorni alla settimana, 23 euro al giorno per 4 mesi l'anno, vitto e alloggio pagati, hanno risposto 5.000 persone, però erano 4.885 albanesi e solo 19 greci, a dimostrazione che forse anche in Grecia la voglia di lavorare, perché insomma, è un lavoro più che dignitoso, 23 euro al giorno per 4 mesi l'anno, solo 19 greci hanno risposto su 5.000, tra cui alcune donne over 60, un medico pensionato e un ingegnere disoccupato. Anche la Banca Centrale Europea stima un peggioramento oggi nella situazione delle piccole e medie imprese italiane, il credito è più difficile, dice la BCE, l'occupazione va verso, quindi il numero degli occupati o per converso il numero dei disoccupati va a peggiorare secondo la Banca Centrale guidata da Mario Draghi, e in Italia notiamo alcuni dati, non solo quelli aggregati, che purtroppo vanno in questa direzione. La casa tiene. Immagino che molti anche qui tra il pubblico abbiano una loro abitazione. La casa tiene, i prezzi hanno ottenuto in media 1.584 euro al metro quadro nel 2011, ma il mercato in termini di compravendita è in calo del 2,5%. Il mercato cresce solo nelle grandi città, è completamente fermo nei piccoli centri urbani, non, per non parlare poi della campagna e della provincia. Il mutuo italiano dura in media 23 anni e ha una rata media di 700 euro. Per comprare una casa servono teoricamente in Italia quasi 4 anni di stipendi. È interessante anche il dato sui mutui, perché i mutui sono scesi l'anno scorso del 4,5%, non come valore ma come numero di mutui. Al sud hanno fatto meno 8% quasi. E nel frattempo, mentre le prospettive peggiorano, mentre Standard & Poor's tira una gufata senza precedenti, 35 mila miliardi di tempesta perfetta sui mercati finanziari, e noi, o meglio una parte di questo paese, vive in un altro mondo, in un'altra dimensione, in una dimensione parallela, e conosce un altro tipo di crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Ah, la crisi. Sì, perché abbiamo speso 22 milioni di euro per nulla. Voi direte poca cosa. Beh, insomma, in questo periodo mica tanto. 22 milioni di euro per nulla per la scuola di magistratura a Bergamo, che non si farà più. Il ministro della giustizia Paolo Severino ha ufficializzato la scelta nell'unica sede di Firenze. Restano a bocca asciutta Bergamo, ma anche Benevento e Catanzaro. Vanno anche in fumo i banchi, gli arredi non sono mai arrivati, ma i banchi sì, e i milioni di soldi pubblici spesi per affitti e ristrutturazioni. I locali a Bergamo sono pronti per ospitare le lezioni, sono costati già 500.000 euro di affitto, inaugurati nel giugno 2011 da tre ministri, Alfano, Calderoli e Bossi. Non è che abbia portato molto bene questa scuola di Bergamo ai tre. Comunque, resteranno vuoti senza mai essere entrati in funzione, e appunto 22 milioni di euro solo per l'avviamento della sede di Bergamo e di Benevento, mentre Firenze sarà quella operativa. Complimenti, noi intanto ci occupiamo dell'economia reale e delle imprese italiane strette tra la morsa della crisi e l'assenza di pagamenti da parte della pubblica amministrazione. 349-238-6666 per i vostri SMS. In cui purtroppo un altro imprenditore si è suicidato, e oggi anche se qui è una festa, è la festa del libro, ma dovrò leggere alcune paccate di mail che sono arrivate di imprenditori in difficoltà, l'iniziativa è quella che conoscete, Disperati Mai, @radio24.it, che vuole essere solo e semplicemente una voce per chi si sente completamente solo, almeno si sente o dovrebbe potersi sentire un po' meno solo. Dicevo, mentre un uomo si è ucciso a Napoli e ha lasciato una lettera denunciando problemi economici e accuse a Equitalia, Confindustria racconta che la ripresa si allontana, e il ministro Passera, due giorni che vediamo i ministri, la torinese Fornero, che è qua presente, oggi ha inaugurato anche il salone del libro, ha fatto autocritica, ha detto che sugli esodati la colpa è anche sua, noi modestamente ci eravamo permessi di sottolinearlo, perché non si fa una riforma delle pensioni senza pensare a cosa capita a chi è appena uscito dal lavoro con lo scivolo e deve andare in pensione. Inutile raccontare che è difficile, bisogna pensarci prima, anche perché si parla della vita, di anni della vita delle persone. E oggi anche il ministro Passera, parlando all'assemblea di Rete Impresa Italia, dice: attenzione, il disagio è ampio ed è a rischio la tenuta del paese. Come è molto chiaro, ed è la principale fonte di responsabilità che io poi personalmente sento, è quel disagio sociale diffuso che, soprattutto legato alla mancanza di lavoro, in Europa in generale, ma certamente nel nostro paese, si è creato, ed è molto più ampio di quello che le statistiche dicono. E quindi? Questo lo sappiamo anche noi, ministro, e quindi ci aspettiamo dal governo un'iniziativa forte, seria. Ho capito che non esiste la bacchetta magica, ma forte e seria per sbloccare questa situazione. Se no, quanto analisi siamo capaci anche noi. Questa iniziativa, una parte di questa iniziativa, è quella che comunque il ministro ha annunciato oggi, ossia l'intenzione di risolvere il problema dei 70 miliardi almeno che lo Stato deve alle imprese. Stato intendo dire tutto, regioni, province, comuni, sanità, sono soprattutto le ASL. Ora, delle mail che leggeremo oggi, ce ne sono alcune altre, perché già le abbiamo ricevute, in cui imprenditori raccontano come hanno aperto un mutuo per pagare le tasse, che già in termini è un obbrobrio, e nel frattempo vantavano 50, 100, 150 mila euro della pubblica amministrazione. Voi mi dite se è possibile aprire un mutuo per pagare le tasse, che è cosa buona e giusta pagare le tasse, ma se lo Stato ti deve 50 mila euro? Il ministro Passera sull'intenzione di risolvere questi crediti ancora non versati alle imprese. compatibilmente agli obiettivi di finanza pubblica, questa cosa va risolta, perché sono crediti che le imprese, soprattutto piccole e medie, hanno diritto di incassare. Bisogna risolverlo in ambito europeo. Abbiamo trovato, credo, una soluzione interinale insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze per poterle liquidare velocemente. E anche il viceministro all'economia Vittorio Grilli è intervenuto su questo, questa volta non di fronte ai commercianti Rete Imprese per Italia, ma di fronte agli industriali del Lazio, all'Assemblea di Un'Industria, e anche lui ha voluto rassicurare gli industriali sulla compensazione di crediti e imprese. Vi voglio rassicurare che nel giro di pochi giorni il decreto attuativo sulla certificazione sarà pronto, è questione proprio di pochissimo, e per testimoniarvi vi dirò anche quali sono i contenuti essenziali di questo decreto su cui stiamo lavorando, e forse anche una piccola sorpresa. Questo decreto prevede un meccanismo di certificazione assolutamente semplificato, con due moduli da compilare: uno di richiesta di certificazione del fornitore da inviare alla amministrazione debitrice, e uno di risposta, entrambi già precompilati, semplici, dove non ci sia un'ambiguità in che modo e come si debba chiedere o si debba certificare. Tutto ciò deve avvenire all'interno di 60 giorni. La Consip sta predisponendo una piattaforma elettronica attraverso la quale queste certificazioni e questa semplice modulistica possa essere gestita elettronicamente senza scambi di carte, viaggi o simili. Il terzo, con tale certificazione, sulla base degli accordi con l'ABI, possa essere immediatamente usata allo sconto prosolvendo nel sistema bancario. La quarta è che, in deroga alle nostre procedure e regolamenti ormai vecchi di 90 anni, il credito potrà essere eventualmente ceduto senza atto notarile, senza notifica attraverso ufficiale giudiziario, risparmiando tempo e denaro. Infine, e questo è quello che ci sta ritardando un po', ma penso che lo apprezzerete, e che stiamo studiando, e anzi non stiamo studiando, vogliamo fare in modo che questo processo di certificazione semplificata sia anche la base per la compensazione di crediti e debiti iscritti al ruolo con la nostra Agenzia delle Finanze. Allora, c'è del tecnicismo, però è importante, nel senso che l'impianto del governo si muove su una certificazione che lo Stato farà all'imprenditore, dirà: io ti devo questi soldi, puoi andare in banca con questo certificato, hai 60 giorni per chiarire, la pubblica amministrazione ha 60 giorni per chiarire questo, il credito sarà prosolvendo, cioè la banca lo girerà all'imprenditore a patto che poi lo Stato paghi, non è prosoluto, non è che a questo punto se lo accolla tout court la banca. E non servirà comunque un atto notarile. L'importanza di questo accordo, che speriamo venga annunciato brevissimo, come ha ricordato il viceministro Grilli, lo ha ricordato anche la presidente Confindustria Emma Marcegaglia. 100 miliardi di euro, 70 miliardi di euro, non lo sappiamo esattamente, una cifra enorme. Sono anni che Confindustria chiede, non lo chiede solo a questo governo, l'ha chiesto al precedente, ai precedenti, una soluzione chiara su questo tema. Non si può continuare a mettere il problema sotto il tappeto e scaricarlo sulle spalle degli imprenditori, che in questo momento vivono insieme una domanda interna a zero, un credit crunch molto forte e una situazione appunto complessiva di scarsa fiducia. Allora, qui noi ci aspettiamo cose chiare, la certificazione è molto importante, sono alcuni mesi che ne parliamo, se nei prossimi giorni arriverà veramente questo decreto di certificazione chiaro, facile, senza giri di cose, senza che ci possano essere situazioni che bloccano la richiesta e la risposta di certificazione, e ovviamente immagino che la certificazione sia obbligatoria non solo per lo Stato ma anche per gli enti locali, cioè deve essere ogni come dire, ente pubblico deve essere obbligato, quando c'è una richiesta di un'impresa di certificazione del proprio credito, a rispondere. Non può essere facoltativo, perché sennò torniamo, come dire, in una situazione che non va bene. Quindi, se noi avremo in pochi giorni questo decreto sulla certificazione, che permetterà La seconda parte, che secondo me è ancora più importante, la compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione, io mi sento di dire che questo sarebbe un fatto molto importante, un primo segnale forte, chiaro, che il governo intende guardare con attenzione al tema del credit crunch, al tema del soffocamento per mancanza di credito e di liquidità delle imprese. Così la presidente uscente degli industriali. Volete sapere, scrivono alcuni ascoltatori al 349-238-6666, dove siamo? Al Salone del Libro di Torino, siamo al padiglione 2, stand J166, siamo d'accordo su questo, sì? Padiglione 2, stand J166, fra poco avremo ospite anche chi ci ospita, ossia chi fa gli onori di casa in questo padiglione, Ernesto Ferrero, il direttore del Salone del Libro di Torino. Poi parleremo con Pino Aprile della questione meridionale, abbiamo avuto anche uno scontro molto vivo qualche settimana fa con uno scrittore storico che, diciamo, tifa Forza Sud, mettiamola così, con degli approcci che non sempre abbiamo condiviso, ma giustamente invitiamo anche persone che la pensano diversamente da noi. Dicevo, il credito alle imprese, il presidente degli industriali del Lazio e di Roma, Aurelio Regina, lo ha definito questione di vita o di morte per le imprese, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi. Beh, una vita di morte, perché oggi stretti da un accesso al credito difficile, stretti dai mancati pagamenti e da un mercato che non sta rispondendo alle attese, con una diminuzione in molti settori, e diventa di vita o di morte. E lo si vede dalle reazioni anche esagerate, tragiche, che alcuni, come dire, stanno adottando in questi mesi, in queste settimane. Quindi è una risposta forte e decisa che l'azione di un'industria, di Confindustria, deve sollecitare le istituzioni, e le istituzioni devono rendersi conto che il momento è davvero di grande emergenza. Cosa chiedete in particolare al governo? Di lavorare in maniera decisa sui crediti della pubblica amministrazione, saranno 70, 100, alcuni dicono addirittura 130 miliardi, che sarebbero una spinta vitale, diciamo, alla liquidità e al sostegno in questo momento delle imprese, in particolare le piccole e medie. Quindi anche la soluzione che oggi il ministro Grilli ha qui portato, cioè quella di garantire la certificazione del credito e quindi poter scontare finalmente, diciamo, presso il sistema bancario i crediti, credo sia una buona soluzione. Speriamo che arrivi veramente molto in fretta, perché qui occorrono decisioni molto rapide. Invece la ricetta per aumentare l'occupazione? Certamente è un tema ben più complesso. Abbiamo spinto su quello che in questo momento sono le grandi politiche di medio e lungo termine, cioè lavorare sul piano, un piano di infrastrutture adeguato, su un piano energetico, cioè rafforzare, quindi sviluppare tutte quelle che sono le nuove tecnologie, i nuovi mestieri, le nuove intelligenze, cioè sfruttare a fondo l'agenda digitale. Quindi ci sono almeno tre grandi gambe sui quali può ripartire l'economia. Un'altra bacchettata al governo sulle liberalizzazioni e le privatizzazioni, un capitolo sul quale il governo è stato un po' troppo timido. Molto timido, e indubbiamente ha preso coscienza del fenomeno, però la reazione in questo momento è ancora molto limitata. Sulle liberalizzazioni c'è moltissimo da fare, sulle semplificazioni non solo normative, cioè quelle semplificazioni che devono scendere nella vita delle imprese, e anche sulle privatizzazioni. Abbiamo tanto patrimonio pubblico inutilizzato, abbiamo tante aziende inutili che sono in perdita, danno luogo solo a spazi di nepotismo politico. Ecco, su questi fronti, su queste aziende che valgono oltre 25 miliardi di euro, va presa una decisione molto forte da parte delle amministrazioni locali. Commentiamo subito la borsa, poi parliamo del manifesto della cultura del Sole 24 Ore, del domenicale del Sole 24 Ore, del Salone del Libro con il direttore editoriale Ferrero. Prima di tutto la borsa, quindi, e lo facciamo con Livia Zancaner. Livia, buonasera, Radio Cuore Sole 24 Ore. Buonasera. Allora Livia, più 1,60%, 1,70% per la precisione, Milano, più deboli le altre borse europee, tranne Madrid, che ha recuperato bene, più 3,42% dopo aver toccato ieri i minimi dal 2003. Questo nonostante la previsione di Standard & Poor's di una tempesta perfetta da 35 mila miliardi di dollari che si abbatterà sul mondo tra 4 anni, cioè neanche Nostradamus è riuscito a portare così sfiga. Comunque, Livia. Sì, allora, i riflettori dei mercati sono puntati come al solito in questi giorni sul possibile sblocco dello stallo politico in Grecia. La notizia di oggi è che l'incarico è stato assegnato all'ex ministro Venizelos, che cercherà di formare un governo pro-europeo di unità nazionale. Come dicevi tu, le borse europee hanno chiuso in maniera contrastata una giornata vissuta all'insegna della volatilità. Una delle borse migliori è stata Milano dopo Atene più 6% circa e Madrid più 3%, grazie anche alla notizia relativa all'acquisto da parte di Goldman Sachs, la banca d'affari americana, di 2,3 miliardi di dollari circa di titoli di Stato italiani nel primo trimestre di quest'anno. Si è quindi allentata la tensione sul mercato di titoli di Stato e di questo ne hanno beneficiato le banche. Ecco, banche oggi tutto in evidenza, devo dire anche il Monte dei Paschi, di cui parleremo dopo, più 4%, ma soprattutto Unicredit, più 6,70%, Intesa San Paolo, più 6,26%, Monte dei Paschi, abbiamo detto. Bene anche Ubibanca, più 3%, Popolare Emilia Romagna, più 3,03%, Banco Popolare, più 2,5%. Che è successo invece a Pirelli, meno 9,5%? È vero che molte salite in queste settimane dopo i dati della trimestrale, ma oggi insomma il calo è oltre i realizzi, mettiamola così. Sì, allora oggi la società ha comunicato i conti del trimestre, che si sono chiusi con un utile in crescita del 48,4% a quasi 123 milioni di euro e ricavi in aumento dell'11,1%. A penalizzare il titolo è stata la revisione al ribasso dei target dei ricavi di fine 2012. Il gruppo ha detto infatti di aspettarsi per fine anno un fatturato di circa 6,45 miliardi, mentre in precedenza le attese erano di 6,6 miliardi circa. Si tratta sempre di un rialzo, ma un rialzo leggermente più contenuto per la società. Sì, il target soprattutto, come tu dicevi, è stato anche abbassato. Tods invece ha diffuso i conti, buoni conti di Tods, ma il titolo perde. Sì, i conti sono stati buoni. L'1,90. Diciamo che è stato un pretesto per vendere il titolo, che comunque aveva guadagnato quasi il 27% da inizio anno. I conti sono stati buoni, come dicevi tu, il fatturato è salito dell'8%, l'EBITDA del 2,4% ed è proprio la crescita dell'EBITDA che è stata giudicata, quindi del margine operativo lordo, che è stata giudicata deludente dagli operatori, che avevano messo in conto invece una crescita di almeno il 5% contro invece il 2,4%. Sempre di conti parliamo, questa volta di A2A, appunto il miglior titolo oggi tra quelle maggiore capitalizzazione, più 9,66%. Il titolo è stato premiato appunto dopo la pubblicazione dei conti trimestrali, in particolare della revisione al rialzo delle previsioni sul margine operativo lordo. La società ha comunicato un utile, un margine operativo decisamente superiore alle attese, una riduzione del debito a 3,9 miliardi di euro. Inoltre appunto A2A ha previsto un progressivo miglioramento dell'EBITDA, quindi il margine operativo lordo rispetto a quello del 2011, grazie soprattutto al consolidamento di Edipower e al miglioramento dei risultati della partecipata. Un ultimo titolo, Telecom Italia, dopo la decisione di vendere la 7, il titolo Telecom Italia Media è il miglior titolo in assoluto oggi a Piazza Affari, più 13,40%. Sì, infatti Telecom Italia Media è stata appunto premiata dalla conferma da parte di Telecom delle indiscrezioni su una possibile vendita di La 7. Telecom, che ha pubblicato ieri sera dopo la chiusura dei mercati i conti trimestrali, ha confermato infatti l'avvio del processo di vendita delle attività media e quindi della società controllata da Telecom Italia Media. Il piano partirà con lo scorporo di La 7 in una nuova società. Ricordiamo che La 7 attualmente si trova nella capogruppo, che è Telecom Italia Media S.p.A. Siamo al padiglione 2, continuate a chiedercelo con gli sms, padiglione 2, J166, ce l'ho fatta? Sì, ce l'ho fatta, bene. Allora, ringrazio Ernesto Ferrero, che è direttore editoriale del Salone del Libro di Torino. Se gli fate un applauso, visto che ci ha raggiunto qui, grazie. Sono obbligati. Sono obbligati, sì, ho capito, cioè, non è anche c'è un costo anche per sedersi, no. Parte gli scherzi, voi avete un Salone del Libro che come sempre diventa il fulcro per editoria italiana in questi giorni. Mi interessa però, i titoli sono svariati, la primavera digitale, vi occupate anche delle frontiere dell'editoria e poi parleremo anche dei dati dell'industria del libro, ma vorrei capire come una crisi che ormai non è più una cosa economica, finanziaria, una cosa congiunturale, una cosa di cui si occupa solo le 24 ore e questo programma, ma è una crisi che sta cambiando culturalmente i rapporti dentro l'Europa in primo luogo, pensiamo Germania, Italia, stanno rinascendo nazionalismi, sciovinismi che pensiamo dimenticati, e sta cambiando sostanzialmente anche la nostra stessa idea di futuro e di agire sociale. Ecco, come si declina una crisi del genere, che non è più solo economico-finanziaria, nel mondo dell'editoria? No, ma io credo che la crisi sia semplicemente insomma, il prodotto di una crisi di civiltà, sostanzialmente, di una crisi etica e di una crisi culturale. È chiaro che se noi non mettiamo al centro del progetto di una società la cultura intesa nella sua accezione più ampia, che quindi va dalla scuola, partendo addirittura dalla vita prescolare agli istituti superiori, all'università, alla ricerca, alla conservazione dei beni culturali e artistici e naturalmente a tutto il resto, perché il turismo, il tempo libero, cioè se non ne facciamo veramente il centro di un prodotto e se non mettiamo la formazione dei cittadini come obiettivo prioritario, è chiaro che poi i risultati sono questi qui. Adesso siamo veramente all'anno zero. Dobbiamo reinventarci tutto. Io infatti ho accolto con grande soddisfazione questo manifesto lanciato dal Sole, di cui parleremo fra pochi minuti qui in Sala Rossa, perché credo che il punto sia esattamente questo. Mi fa piacere che 3 ministri della Repubblica abbiano sottoscritto questo manifesto. Naturalmente hanno tante cose da fare, il tempo è poco, però insomma anche il governo che verrà, e Dio ce la mandi buona, perché da come stanno le cose a oggi, 10 maggio, c'è veramente da raccomandarsi al Signore, ma io mi raccomanderei anche agli italiani, che sono poi molto più avvertiti, consapevoli e maturi di quello che amiamo rappresentarci. Ma dico, qualsiasi governo che verrà deve veramente rimettere questo punto al centro di tutto, perché sennò insomma qui la grande paura che circola ormai da mesi è che si vada rarefacendo un pubblico che è ancora capace di leggere dei libri di cultura. Allora va benissimo l'intrattenimento, evviva, non è che possiamo sempre volare a 10.000 metri di quota, però dobbiamo anche rinforzare i nostri globuli rossi con delle cose di sostanza. Ecco, questo è un altro dei segni di questa regressione culturale. Il problema è che un paese vale per quello che sa, e la competizione sarà tremenda, perché se voi parlate con gli insegnanti vi dicono che gli allievi più agguerriti, più motivati e più pronti sono i piccoli cinesi, i piccoli indiani, i piccoli extraeuropei. Quelli che hanno più fame. Certo, animati da grandi. Lei è d'accordo con il ministro Fornero che i nostri giovani non sappiano l'inglese, non sappiano l'italiano, non sappiano far di conto? Ed è giusto che lo dica un membro di un corpo accademico? Cioè, responsabilità ne avrà anche qualcuno, l'università e il nostro mondo di istruzione? No? Il problema è che all'università arrivano degli allievi per cui... Dove notoriamente va tutto bene. No, al contrario, con qualsiasi professore universitario con cui parlate vi dice che deve passare i primi 2 anni a fare una specie di ripetizione, praticamente a fare quello che si fa magari in prima liceo. Cioè, poi questo è un discorso che va riportato addirittura alle famiglie, perché poi il grande anello debole, che è il primo, e sono proprio le famiglie che sono assenti. Abbiamo ragionato più di una volta, però vorrei tornare sui temi anche del mondo dell'editoria, perché prima di arrivare poi in pubblicità, i dati che noi abbiamo visto sono comunque di un aumento non enorme, ma un più 3,5% nella lettura di libri, cioè negli italiani che dicono negli ultimi 12 mesi ho letto un libro. Praticamente siamo solo il 46,8% dei totali potenziali lettori, e questo vuol dire che evidentemente la crisi porta anche a consumi più sobri, questo lo vediamo da tempo. Però lei, che è stato per moltissimi anni il direttore, il dominus dell'Einaudi, che ha sempre avuto un respiro europeo, paneuropeo, chiamiamolo come vogliamo, non è rimasto un po' deluso, se non scioccato, dal vedere che l'Europa si sta sciogliendo, l'Europa dell'euro si sta sciogliendo come neve al sole? Cioè, i tedeschi anche oggi hanno detto no, non aiutiamo nessuno, i greci hanno votato in un certo modo. Non resta sorpreso da un'Europa che dimostra così poca tenuta culturalmente parlando? Dimostrano poca tenuta le classi dirigenti, le quali soffrono evidentemente anche loro di un grosso deficit culturale. Io vorrei sapere quanti dei nostri rappresentanti al Parlamento leggono un libro al mese, e spero che i loro colleghi europei inquietante sapere cosa leggono. Sì, ma guardi, però anche i loro colleghi europei non mi sembrano molto, se i risultati sono questi non è che mi sono migliori lettori. E quindi secondo lei ci sarà bisogno, poi ho 20 secondi scarsi, di ricostruire anche culturalmente l'Europa come macerie di questa crisi? Noi stiamo pensando come ricostruire il potere d'acquisto, l'occupazione, i conti pubblici dei vari paesi europei, ma bisognerà ricostruire anche un'idea d'Europa oppure no? Oppure quella è più un sottostrato che c'è? No, io credo che l'Europa sia un passaggio obbligato, naturalmente come tutte le cose bisogna lavorarci, non è che è come la democrazia, vediamo benissimo che i paesi che escono da dittature non è che si trasformano immediatamente in democratici, si portano dietro delle malattie sociali devastanti, così accade con l'idea d'Europa, così accade che va... Ci si deve lavorare sopra e va fatta manutenzione. Devo dire, noi italiani siamo molto europeisti. E 8 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal padiglione 2 stand J166 al Salone del Libro di Torino. E allora, come annunciato, parliamo anche di cultura in tempo di crisi e lo facciamo con chi questa battaglia sta cavalcando da tempo. 349-238-6666 per i vostri SMS. Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, buonasera direttore. Buonasera. Allora, prima di tutto un tuo commento, poi arriviamo al manifesto della cultura, un tuo commento su quanto ricordavamo in apertura, cioè il ministro Passera da un lato, il vice ministro Grillo dall'altro hanno garantito che fra pochi giorni arriverà la disciplina completa per iniziare a pagare parte dei 70 miliardi che lo Stato, gli enti pubblici devono alle imprese italiane. Prosolvendo e le altre tecnicalità le abbiamo raccontate, ma visto che tu 2 giorni fa hai fatto un editoriale in cui chiedevi al governo di fare presto, per usare il titolo che ti ha reso famoso al Sole 24 Ore, e andare oltre la fase 1, la fase dei tagli e delle tasse, è un primo passo questo o no? È un primo passo, però dovremo verificarlo, cioè l'editoriale a cui facevi riferimento si intitolava Senza più alibi, il punto è inequivoco nella discussione. Noi abbiamo chiesto come giornale, in un momento di assoluta precarietà dell'Italia, una guida tecnica, una guida di chi conosceva la lingua dei mercati e la lingua degli stati, ma avesse alle spalle una forza politica che investisse sulla causa italiana. Abbiamo evitato il primo grandissimo pericolo di diventare la nuova Grecia, ma non siamo fuori pericolo. Quindi, dopo quello che si è fatto, con l'intervento sulle pensioni, con il Salva Italia, bisogna avere la consapevolezza che avendo aumentato ulteriormente la già elevatissima pressione fiscale, non si può più rinviare tutto ciò che è dovuto. Cioè, se io aumento ulteriormente la pressione fiscale, quindi chiedo alle imprese e alle famiglie di versare ancora di più allo Stato, lo Stato deve assolutamente onorare i suoi debiti. Quindi qui non ci sono più alibi. Non si può più tergiversare, devono trovare il meccanismo per onorare questi debiti, per dare alle imprese la liquidità dovuta. Questo è un punto ineludibile, perché se no si rischia un avvitamento pericoloso. Quindi è vero che lui deve fare una grande battaglia, il nostro Premier Monti, una battaglia politica perché l'Europa cambi, perché attivi gli Eurobond, perché partano gli investimenti infrastrutturali soprattutto in Sud Europa. Ma intanto, giorno dopo giorno, anzi lottando sulle ore e sui minuti, bisogna iniettare liquidità in questo sistema. Sì, hai fatto bene a ricordare che c'è anche il fronte politico europeo. Oggi dalla Germania è arrivato un nuovo no di Angela Merkel agli Eurobond. Speriamo che almeno passi l'Eurobond, è una parte del debito europeo che viene sostanzialmente diviso per tutti i paesi con un'emissione. No, secondo me, se posso interrompere, la vera illusione in cui tutti cadono, che l'emozione della vittoria di Hollande fa ritenere che cambi qualcosa automaticamente in Europa, non è vero affatto. Questa è la grande responsabilità di Monti. Il problema, ripeto, è politico, l'Europa germanica non funziona. Ah, su questo non ci sono popolazioni che si ribellano, non più la popolazione greca, appunto, ma è anche la popolazione francese e la popolazione italiana. Segnali si vedono in popolazioni del nord Europa, è il sistema che è concepito male. Quindi da questo punto di vista bisogna che non è tollerabile che la Germania si possa finanziare a 10 anni a costo zero e noi dobbiamo pagare quello che paghiamo. Abbiamo le nostre colpe, vogliamo dimostrare, diciamo, rigore e serietà, però al rigore e alla serietà che abbiamo dimostrato si deve affiancare una politica di sviluppo che si traduca in impegni cogenti, tangibili. Quindi investire in infrastrutture nel sud Europa è il primo esempio concreto. Trovare i meccanismi perché ciò sia possibile, partiamo dagli Eurobond o dai Project Bond, certo. diamo poteri e mezzi alla BEI. Insomma, l'importante è che l'Europa nel suo insieme dimostri di non essere più germanica. Vogliamo una Germania europea e un'Europa che investe. Beh, diciamo che morire per la Germania... anche no, abbiamo già dato. Quando arriva un partito neonazista in Grecia che riesce ad avere l'8% e andare in Parlamento, evidentemente dobbiamo fare delle riflessioni. D'accordissimo, anche se molti ascoltatori dicono no, la Germania, meno male che c'è la Germania, attenzione, in questo momento la Germania è l'unico paese che ha un vantaggio dalla crisi in cui sono precipitati gli altri, perché come in certe classi, se tu sei l'unico che ha fatto i compiti... No, attenzione, cioè non è che va criminalizzata la Germania, no. La Germania ha una regola di rigore che ha rispettato, e a questa regola noi ci siamo anche ispirati. La nostra riforma delle pensioni, adesso abbiamo, come dire, degli standard superiori a quelli tedeschi ed immediatamente esecutivi. Io dico solo che nel momento in cui noi così brutalmente e meritoriamente ci siamo allineati a questi standard, pensiamo di aver diritto a che l'Europa si viva come, certo, un disegno politico dei cittadini europei che tenda a costruire un popolo nuovo, non una comunità dove c'è così dire, tra virgolette, un padrone e tanti vassalli e valvassori. Questo, sì, non è possibile, la democrazia non tollererebbe a lungo questi rapporti di forza. Se no, l'alternativa è interrompere un euro che diventa un euro solo contro la Germania, ma non ci voglio neanche pensare. Voglio invece arrivare, perché so che anche tu, direttore, devi raggiungere un convegno. Il convegno si chiama Il Manifesto della Cultura, le cose da fare, e riprende Il Manifesto della Cultura del Domenicale, l'inserto della Cultura del Sole 24 Ore. Ora io ti chiedo, voi avete titolato in questo brismo niente cultura, niente sviluppo, ma che ci azzecca la cultura e il Manifesto della Cultura con la crisi più epocale dal 29 in poi? Guarda, posso risponderti, adesso mi è subito venuto in mente, che il 9 dicembre del 46 Alcide De Gasperi tenne un discorso molto importante alla Scala di Milano, perché volle essere presente alla ricostruzione della Scala di Milano, quella con Toscanini che tornava in Italia, un simbolo, cioè nel momento in cui l'Italia doveva rinascere dalle macerie della guerra. Uno dei primi atti che fece De Gasperi, facendo anche un discorso molto importante, in cui diceva: noi abbiamo due forze importanti, una è la forza del lavoro, l'altra è la forza della cultura. Che cos'è per me la cultura? Per me la cultura è tutto, perché la scuola, è la ricerca, l'università, è l'arte, la letteratura, è un patrimonio museale, è l'architettura, ma è anche la filologia e la morale. In una parola è l'Italia. Noi siamo conosciuti nel mondo per questo brand. Quindi per me la cultura non è un costo, ma è un investimento, non è un problema, ma è un'opportunità. Il manifesto vuol dire semplicemente che bisogna smetterla di affrontare questo tema con, come dire, un tratto particolaristico. Non ha senso il Ministero della Cultura, ha senso una visione di lungo termine. Mi viene in mente la coerenza meridionalista, per rimanere a De Gasperi, quando nel dopoguerra si disse: bisogna far ripartire il Mezzogiorno, bisogna far ripartire l'agricoltura. Quelli erano i dati strategici, poi non ce l'hanno fatta, ma per i primi 20 anni aveva funzionato. Ecco, la cultura intesa come dalla ricerca, diciamo, alla gestione dell'immenso patrimonio museale italiano, è una occasione di investimenti, ma è soprattutto una formidabile chance per creare lavoro, ed è un, come dice, un dato che connota l'Italia. Quando alla Comunità Europea a un certo punto venne fuori che si aboliva la traduzione in italiano, mi ricordo che allora il presidente Carlo Azeglio Ciampi fece una battaglia in difesa dell'italiano come lingua della cultura. Quindi, indipendentemente da tutto, c'è un dato, come dire, identitario di questo paese, che è un dato che appartiene al grande valore della cultura, ma appartiene anche al grande valore dell'economia. Quindi questo è il senso del manifesto. Nel salutarti, ti chiederei per una cosa: il titolo Fate Presto, quello di novembre, vado a memoria, sì, che ha vinto anche dei premi, era entrato, diciamo, nella cronaca breve del giornalismo italiano. Ora, secondo te, hanno fatto presto? A fare il governo hanno fatto prestissimo. A evitare il rischio greca, oppure aumentare le tasse, sono stati molto veloci, hanno fatto qualche pasticcio, perché non è tanto e non solo il fatto che l'abbiano aumentata, quanto che non ci dicono ancora come la dobbiamo pagare quest'IMU. Se allora, a un certo punto uno dice mandateci un facsimile, un modulo, paghiamo e buonanotte. Però al di là di questo non è il momento di fare battute, perché è un momento oggi complicato come quello di novembre, per certi versi ancora più complicato. Il fatto, come l'ho detto all'inizio di questa conversazione, avere scampato il rischio più grande non significa essere fuori pericolo. Quindi si è dato una risposta immediata, adesso bisogna agire dove, come abbiamo detto fino adesso. Allora, io nel ringraziare il direttore del Sole 24 Ore ricordo che oggi sono usciti anche i dati sulle vendite dei giornali, e dopo il più 16,2 della precedente rilevazione il Sole ha fatto più 5,5. Quindi, se mi fate un applauso e mi salvate il posto di lavoro, no, fate anche un favore a Roberto Napoletano. Grazie, direttore del Sole 24 Ore. Il convegno, per chi fosse in giro per il salone, si chiama Il Manifesto della Cultura, le cose da fare. E allora, dopo questa operazione di piaggeria estrema, scherzo, in realtà accanto a me c'è adesso Pino Aprile. Pino Aprile è un autore molto noto, anche perché è uno storico, possiamo chiamarlo revisionista, cioè una visione del Sud e di quello che è stato il Risorgimento un po' diversa da come l'abbiamo letta, un bel po' diversa da come l'abbiamo letta nei libri a scuola. Il suo libro Terroni, tutto quello che sto fatto perché gli italiani del Sud diventassero meridionali, è un libro che ha suscitato molte polemiche. Adesso ce n'è un altro, si chiama Giù al Sud, perché i terroni salveranno l'Italia. Allora mi dica subito perché i terroni salveranno. Intanto buonasera, se fate un applauso anche a lui, adesso non è che Torino. Ma per una ragione, sembra una provocazione ed è una banalità. L'Italia è un sistema economico integrato, costruito a mano armata 150 anni fa e mantenuto così con una serie di leggi discriminatorie. E quando c'è un sistema del genere, che è praticamente un sistema coloniale, chi ne trae vantaggi non ha alcun interesse a correggerlo, perché perderebbe la fonte dei suoi privilegi. Solo chi ne patisce svantaggio ha interesse a renderlo più equo, equilibrato. Paradossalmente questo porterebbe ancora più vantaggi a chi crede di ricavarne già in quella situazione, perché banalmente il Sud è quasi il cliente esclusivo del Nord, 60-70% delle merci del Nord vengono, ultima analisi Banca d'Italia. Ora, più soldi perde il Sud, meno merci si acquistano del Nord. C'è un po' il parallelo che noi facciamo con la Germania e il resto d'Europa. Attenzione che se si ferma il resto d'Europa, la Germania esporta meno. Esatto. Devo dire due cose. Intanto la notizia che le agenzie hanno appena battuto e il Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso, ha detto che se la Grecia non rispetta i patti esce dall'euro. E questa è la prima volta che la sento dire da un rappresentante della Commissione Europea. La seconda invece è un elemento che riguarda invece il nostro Mezzogiorno, perché il governo ha deciso che vi sarà un bonus fiscale del 50% dei costi salariali in compensazione. È per i datori di lavoro questo bonus, che assumono al Sud a tempo indeterminato tra il 14 maggio 2011 e che hanno assunto quindi il 13 maggio 2013, personale svantaggiato, molto svantaggiato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Aprile, non possiamo discettare su tutto quello che è il processo di unificazione o non unificazione, però io da lei vorrei sentire, per evitare questa contrapposizione nord-sud, che secondo me non serve più quando hai una crisi del genere, cioè meglio che tu stia in rete, che tu stia incordata, non che continui a dividerti. Allora, così come critichiamo certe degenerazioni inutili leghiste, però io a lei devo dire che delle volte c'è un vittimismo meridionale che lei sembra incarnare, cioè non è possibile che tutti i problemi del Sud abbiano come matrice il Nord. Non vorrei che la sua fosse una riproposizione intellettuale di un partito del Sud che assomiglierebbe molto al partito del Nord che abbiamo già visto. Beh, c'è una piccola differenza. Intanto il Sud ha avuto un'invasione, una spoliazione, la distruzione della sua capacità industriale, c'erano i più grandi stabilimenti siderurgici d'Italia in Calabria. La spoliazione delle sue banche, se solo l'oro del Banco di Napoli dovesse essere restituito, sarebbero 1.500 miliardi di euro, cioè 15 miliardi di euro all'anno per 100 anni, significano due ponti sullo stretto di Messina all'anno, più con quello che rimane, le ferrovie e le autostrade che non vengono fatte. Tutto questo, dici, ma è passato? No, è presente. Esempio, il terremoto dell'Aquila è stato pagato solo con i soldi del Sud, 4 miliardi e mezzo di euro. Il miliardo di euro che Prodi aveva dirottato erano già fondi del Sud per i ricercatori meridionali e la nascita di aziende dalle scoperte, diciamo, dai brevetti di quei ricercatori, è stato poi speso da Scaiola per la rottamazione delle auto, l'industria bresciana delle armi e l'illuminazione del Veneto. Ma questo vale su tutto. Il Ministero della Pubblica Istruzione, gestione Gelmini, ha emanato una ordinanza, si chiamano indicazioni per il curriculum. No, io volevo sapere una cosa, sì, però, perché poi il libro lo leggeremo, ma una critica al Sud, così. Ma se non si fa altro da 150 anni. No, no, ma lei, una autocritica, ci sarà anche una colpa attribuibile. Ma le colpe sono collettive, non c'è una colpa del Sud e una del Nord, c'è una colpa dell'Italia che, unico paese al mondo, da 150 anni mantiene uno squilibrio interno. Ove nel resto del pianeta questi squilibri c'erano, ci sono stati corretti o sono in fase di corruzione, vera la Germania. Vabbè, io non sono d'accordo con lei, ma è il motivo per poco cui invitiamo. Poco male, sì, sicuramente. Il mondo è bello perché ha variato. Ed è il motivo per cui invitiamo anche persone che la pensano diversamente da noi. Il libro si chiama Giù al Sud, perché i terroni salveranno l'Italia. Mi dà anche la casa editrice. La PM, adesso resti con noi, perché invece giù al nord, dal giù al nord, riceviamo centinaia, ormai sono migliaia di lettere, purtroppo, per l'iniziativa Disperati Mai, anche dal sud, per carità, ossia gli imprenditori che non ce la fanno più. Piacere, Luigi delle bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Buongiorno, la mia storia è breve. Ho aperto una piccola impresa nel 2004 nell'ambito della consulenza di importazione di attrezzature e in particolare in plastica stampata. Io ho assunto due persone nel 2008 con l'entusiasmo della sfida che mi contraddistingue. Mi sentivo orgoglioso per aver creato dal nulla due posti di lavoro più il mio. Poi mi sono reso conto che i posti di lavoro forse ne avevo creati di più, o meglio, in troppi, mangiavano le mie spalle. Lavoravo 7-8 mesi l'anno per lo Stato per ricavare uno stipendio che sfiorava i 3.000 euro lordi al mese, che sembrano tanti per alcuni, ma forse non sanno le notti, i sabati, le domeniche, perfino le vacanze bruciate davanti al PC in ufficio. Ci ho rimesso anche il matrimonio, ma la disperazione che mi ha preso non è stata quella letale. Per fortuna ho avuto il coraggio di chiudere la baracca e lasciare a casa i due dipendenti e andarmene dall'altra parte del mondo. Non ne valeva la pena restare in Italia per riempire le tasche bucate dello Stato e dei suoi rappresentanti ladri. Ho lasciato i miei genitori ottantenni, gli amici, la mia città e soprattutto la speranza che qualcosa cambi veramente. Buongiorno, ho 62 anni, sono un artigiano tipografo che vive del suo lavoro da oltre 30 anni. Ne ho passate tante fra crisi varie e denaro perso in fallimenti vari di qualche mio cliente. Ho accumulato cartelle esattoriali, fra le quali anche la mia INPS. Ai dipendenti e ai fornitori ho sempre pagato tutto, magari in ritardo, ma è stato fatto. Ultimamente ho dovuto vendere anche una piccola casa per poter onorare le cartelle esattoriali accumulate. Purtroppo i soldi sono finiti e ho ancora delle cose da pagare. Ho chiesto aiuto alle banche, ma mi chiudono le porte. Avevo chiesto anche tempo fa la sospensione di un mutuo casa e la banca mi ha detto che la normativa non prevede la sospensione per gli artigiani, forse perché siamo ricchi e furbetti. Non immaginavo proprio che quasi alla soglia della pensione avrei dovuto subire un'umiliazione e una crisi così forte e troppo lunga, qualche volta troppo dura. Sono un eroe. Vede, Aprile, soffrono anche al nord. Ma certo, ma quando il paese è malfatto, soffrono tutti. un paese più equilibrato cosa farebbe? Per esempio, lei prima ha letto delle facilitazioni fiscali per chi assume al sud. Guarda che io sono contrario. Io non voglio che le aziende e le cose del sud abbiano un trattamento diverso. La cosa corretta in un paese sano è che il sud abbia le stesse strade, gli stessi aeroporti, le stesse ferrovie del nord e gli imprenditori lavorino tutti nelle stesse condizioni, in modo che i migliori vadano avanti e i peggiori imparino se possibile. Su questo siamo d'accordo, anche la stessa spesa pubblica sanitaria e le stesse bilanci corretti. Tutto, però bisogna farlo. Grazie a Pino Aprile, se gli fate un applauso, Focus Economia termina qui. Grazie al pubblico del Salone del Libro di Torino, Padiglione 2, Stand J 166, ce l'ho fatta, anche domani Focus Economia in diretta dal Salone del Libro. Radio 24, la passione si sente.